se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Oh, giovani, quando vi dico seguitemi i miei pugnaci, dovete seguire e pugnare. Poche foot. Chi erano i quattro amici al bar? Una definizione di quel gruppo, quelle quattro persone. Daniele, Virginia. Lo sappiamo, ma che cos'erano? Un centro di potere, che cos'era? Erano quattro amici. È Salvatore Romeo a Roma. Non è perché si fidava così tanto di Marco? Perché ho lavorato con lui per tanto tempo, perché lui è stato il mio capo dipartimento, ci siamo conosciuti, aveva dei titoli, insomma. L'ho presentato poi nel tempo alle diverse persone del Movimento 5 Stelle. Lei è pentito di averlo presentato al Movimento 5 Stelle? Direi che è pentito è un eufemismo, sì. Molto pentito. Ci sono delle polizze che hanno dei beneficiari casa morte, sono delle forme di risparmio. Ma perché intestarle, dare il beneficio al sindaco Raggi? Mi perdoni, non credo di dover dare spiegazioni a lei, questa è la mia domanda eventualmente alla quale posso rispondere se mi chiamano i magistrati. Forme di finanziamento smentite di qualche tipo. Questo lo sta dicendo sempre lei, io lo sto chiedendo. Smentite, sì. E se si continua in questo senso inizieremo con le querele, perché naturalmente non c'è nessuno, non c'è neanche nessun indizio su questa cosa. E in effetti i magistrati l'hanno convocato. Romeo parlerà ai magistrati, risponderà a queste domande. Signori, l'intrigo della polizza non pare finito. Voglio salutare Matteo che ci ascolta in diretta dall'Ohio. Ohio, ciao Ohio, ciao Matteo. Penso che il tempo delle buffonate sia finito per tutti. Grande Vincenzino De Luca che sta per completare il progetto qui di condurre 24 mattino. Tra poco cederò il microfono, anche perché la novità è che ho la febbre. Sconvolgente. Non è sconvolgente. Avendo la febbre, può darsi, caro Vincenzo, che già da domani ti... Non lo so, preparati. Dilettantismo. No, la febbre non è dilettantismo, è banalmente febbre. Febbre. Tutto oscurato. Adesso sempre questi scenari apocalittici, anche per cose magari no, ma si capisce che non è mestiere tuo. Vabbè, questo magari è vero. Allora, Beppe Grillo dice che Virginia Raggi ha fatto 43 cose positive in questi 7 mesi. Non sto a elencarvele, non lo so, non le ho neanche lette, non... È tutta politica chiacchierata, tutto chiacchiericcio, tutta noia. La verità è che poi uno misura sempre la capacità del proprio sindaco con: scendo di casa, passa l'autobus, la buca è coperta, la spazzatura la portano via, le tasse sono aumentate. E uno la misura così, un sindaco, e non lo so, datevi una risposta e poi vedete. Magari non è che ci vuole la bacchetta magica, magari bisogna lasciarla lavorare, non lo so. Certo, poi uno magari la spazzatura non deve anche buttarla per strada, magari buttatela nei cassonetti. Zozzoni, perché ci sono gli zozzoni all'ascolto che buttano le cose per terra, perché tanto pago le tasse, butto una cartaccia per terra e pretendo che uno me la tiri su. Eh no, facciamo come a Singapore, dove ti arrivano $2,000 di multa se ti beccano a buttare una cartaccia deficiente, e poi vediamo. Allora, saluto anche Angela da Berna, saluto Matteo dall'Ohio e saluto Albertone Forchielli da Bangkok. Io ascolto l'amico bolognese Forchielli, che ho scoperto oggi esiste. Senti qua, non so l'amico con tuo. Quale autorità dica queste cose. Senti catastrofiche, l'amico tuo, l'amico tuo. Molto graziose, poi è bello, pelato, bolognese, ma chi cazzo è? Ma chi cazzo è? Ma che cazzo ha fatto? Ma dove cazzo viene? Forchielli. Ma qual è il suo... Forchielli, ribellati! Noi ti abbiamo difeso! Ma no, ma Salino, quando l'ho visto, Riccardi, dietro quegli occhiali, sembravano due Brion Vega sotto costo da troni, che s'appannavano più lui si agitava, l'arità ha avuto il sopravvento. Io sono scoppiata a ridere, non ce l'ho fatta più. Per poi, onestamente, moralmente, controbattere a Sgarbi sarebbe come sparare a un uomo che caga. No, no, dai, adesso. L'immagine. Io ridevo, che cioè, le lacrime avevo. Dovete perdonarmi. No, infatti. Vabbè, dai. Albertone, come stai? Intanto hai vinto il Super Bowl. Anche il nostro Peter Bescapè in regia ha vinto il Super Bowl. Boston ha vinto il Super Bowl. Bestiale il Super Bowl. Ma io mi sono svegliato la mattina, perdeva 28-3, alla fine del terzo quarto non sono neanche l'ho guardato. E invece? Passa mezz'ora, ha vinto 34-28. È come se il Milan perdesse 4-0 l'85esimo, sì. Quindi 25-4. E noi l'abbiamo fatta una volta, però al contrario, vincevamo 3-0 con Liverpool. Sì, la gente ha spento la TV, gente che stappava gli spumanti, sì. Interisti disperati, sì. Juventini abbattuti, ed è finita. Si sa, non voglio neanche ricordare. A proposito di Milan, allora dai, hai delle notizie che ci arrivano direttamente dall'Asia? Quando chiudiamo tutto? Guarda, ti dico solo una cosa. Chiudere ancora, io veramente, come al solito, voglio la vita contabile, ma primo, i soldi che stavolta devono venire offshore non sono più gli stessi che dovevano venire dalla Cina. Sono altri soldi, altre persone, se mai si dovesse chiudere. Sì. Secondo, con i soldi offshore, il progetto originale del Milan che andava in borsa a Shanghai non c'è più, non si realizza più. Vabbè, quindi andiamo sempre a Budrio nel giro di 3 anni a giocare. Sì, secondo me sì, a Mezzolara. A Mezzolara. Dov'è Mezzolara? Scusa. Ah, Mezzolara è una frazione di Budrio. Però c'è una bella squadrina di calcio da cui uno può anche puntare alla rinascita. Giocheremo lì tra quanto? Sì. Tre anni, se vai ai cinesi. Sì, tre anni. Due o tre anni a Mezzolara. La cosa migliore che può succedere al Milan è che il Berlusconi si tiene il Milan le caparre, ma questo sarebbe fantastico. Il Milan si tiene il Berlusconi, non lo capisce. Vabbè. Arriva qui un messaggio: Forchielli torna a Bologna, non lo so, di un ascoltatore che evidentemente ti reclama. Dobbiamo aprire il Parlamento perché abbiamo tanti argomenti da affrontare. Oh, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Ma... Con Alberto Forchielli da Bangkok, Fondo Mandarin, il nostro imprenditore che non ha peli sulla lingua, che ha fronteggiato Sgarbi a Matrix, uno Sgarbi, ma poi Sgarbi è così, parte di colpo, una volta l'ho incrociato anch'io a Piazza Pulita, cioè tu dici una cosa e lui, peccato, così proprio senza, magari un secondo prima ti dava le pacche sulle spalle. Va bene, allora, caro Albertone, vogliamo partire da uno sguardo mondiale, hai visto che adesso c'è, oggi intanto tutti che si stringono, lo spread ha superato i 200 punti, lo spread tra Italia e Germania. Questo fortifica quelli che dicono, vedete, non bisogna andare a votare, c'è la Merkel vuole l'Europa a due velocità, una roba un po' strana. Insomma, bisogna andare a votare o no, Alberto? Ma io passerei di no con questa legge elettorale, siamo caduti ancora peggio. Cioè, in questo casino preferirei star fermo un attimo. La ragione... per cui la vera ragione per cui la spread è 200 non è Le Pen, ma è l'attacco violentissimo che Peter Navarro, che è il capo degli economisti di Trump, ha lanciato alla Germania. Non è Marion Le Pen che dice usciamo dall'euro. Un attacco più No, no, ma chi ne pensa? È stato un attacco subdolo e estremamente intelligente, in quanto ha accusato la Germania di fare manipolazione monetaria per ritenere l'euro basso per facilitare le proprie esportazioni. Il che è vero e non è vero. Però dire una cosa del genere alla Germania vuol dire rafforzare tutto il fronte anti-Merkel, che sì, dice basta questa politica espansiva della Banca Europea, torniamo a tassi normali, in modo che l'euro salga, la Germania non abbia più questo vantaggio competitivo, è orribile. La Germania in questo momento ha un avanzo commerciale dell'8.6 sul PIL, sì, più grande in valore assoluto di quello cinese. Eh sì, e questo è uno dei attacco di... Però cosa significa? Significa dare spazio a tutti quelli che vogliono, che dicono non possiamo più vivere a tasso zero, anche perché i pensionati non avranno pensione, non c'è, capito, le coperture, però vuole anche dire che l'Italia naufraga, perché senza se l'euro va su, finisce il quantitative easing, vanno sui tassi, no, non ce li possiamo permettere. Vabbè, c'è Draghi che difende, ancora, che difende ancora l'euro. Il punto centrale, Draghi, andate al Parlamento perché per spiegare l'attacco di Navarro. Sì, sì, dicendo l'euro è irrevocabile, no? Questo. Sì, in questo momento lo deve dire. Però da più parti, anche in Germania, si dice ma no, usciamo dall'euro noi, tedeschi, sì, dicono, sì, capito? Però questo perché sarà sicuramente minaccia, il tema della prossima campagna elettorale, eh? Mondialisti, sovranisti, l'euro, l'Unione Europea, bisogna uscire dall'euro, non bisogna uscire dall'euro, questo sarà il tema. Ma hai visto Trump? Ma Trump ti piace con queste prime mosse o ti sembra... Ma guarda, a parte quella faccia tutta rossa che ha sempre, ma secondo me perché lui prende dei gran Viagra da 100, lui è sempre viagrato, ma a parte questo, no? Viagrato. Sì, è viagrato. Dunque, allora, veniamo al punto. Il muro è una stronzata, non glielo fanno fare. La politica anti-Islam è stata ridimensionata dai giudici. Sì. La sua politica filo-israeliana estrema l'ha già corretta dicendo mi sono sbagliato, basta fare insediamenti palestinesi. L'Obamacare è costretto, che quella roba assicurativa è costretto comunque a rifarla, a rimaneggiarla, perché non la può togliere, non può rimettere in mezzo alla strada. Insomma, è tutto chiacchiere distintivo, dici un po'. Sì, capito, per cui non è nei fatti, la chiameranno in un altro modo ma rimane. La polemica anti-NATO è chiuso. Lui dice giustamente voglio una NATO più orientata verso il contenimento del Medio Oriente. Io concordo con lui. Sì, sì. La politica che lui fa contro le multinazionali americane gli hanno fatto causa, sono fabbriche in America e le riaprono, che non sono patriote, io la condivido completamente. Qui ha ragione lui, sta facendo quello che può, quindi benvenga Trump. Poi, che gli americani siano più impegnati su se stessi meno nel resto del mondo? Posso anche condividerla. Sì, hanno speso 14 miliardi di dollari, hanno bombardato tutto il mondo, capito? Se non l'avessero fatto sarebbero molto meglio, onestamente. Infatti lui l'ha detto anche. Anche noi abbiamo, quando gli hanno chiesto di Putin, abbiamo fatto i nostri errori, ha tirato dentro la guerra in Iraq. Assumiamoci la nostra responsabilità, spendiamo in difesa, che il Giappone si faccia la bomba atomica, tanto il Giappone è pieno di plutonio arricchito e buonanotte. Vabbè, insomma. Poi ci sono due temi importanti. La politica, e questi sono i due temi. Il mercato ha da un lato il miraggio dello stimolo fiscale di Trump, ossia abbasso le tasse e faccio le infrastrutture, però non si capisce cosa gli concederà il congresso, però questo è un incentivo che spinge i mercati in su. Poi invece quello che comprime e che deprime è questa minaccia delle tariffe americane. Queste le vedremo, perché alle 6:30 del mattino capisci che le tariffe americane... che succede alle tariffe? Gli americani hanno 500 miliardi di deficit all'anno. Sì. E non importano materie prime, perché sono autosufficienti sul petrolio. Tu capisci che sono una pompa di domanda per il mondo, perché assorbono, capito, fanno domande per il mondo. Come loro chiudono questi 500 miliardi di domanda e ci mettono le tariffe sopra, cambia il mondo. Cambia il mondo. Allora, Alberto, però fermati tutto, qua, perché se ci, fai, se ci snoccioli l'economia americana alle 6.43 la gente sbanda adesso in autostrada. Ci hai detto delle cose importanti. Però, volevo capire, venendo alle cose anche più italiane, noi dell'Unione Europea, sai cosa si sono inventati? Geni, veramente, dei grandissimi geni. Oggi scritto sui giornali, indovina un po', dobbiamo dare 3,4 miliardi all'Unione Europea. Dove andranno a recuperare circa 400 milioni di euro l'anno? Cioè, si sono riuniti, hanno detto... Dicono, adesso facciamo... che aumentano i voli auto. No, adesso... ancora... Si portano via gli sportelli. ancora più facile, hanno detto, adesso, porcaccia miseria, ne troviamo una nuova, una che non abbiamo mai... Sì! Trovato! L'accisa sulla benzina! Aumentiamo la benzina di 2 centesimi al litro! Questo anno... Ma tu hai visto l'ultima giacca di Padova? La giacca di Padova? Sembra quella di ladri di biciclette. No, non è che gli ha messo anche i mosticoni di sigarette per indurre le lacrime? Anche se non ce ne sarebbe bisogno, se ormai che pizza di tutto. Tra l'altro, sai che di Padoan c'è questa notizia che dà il giornale. La figlia di Padoan, Veronica Padoan, è in prima fila tra le contestazioni dei migranti a Reggio Calabria, fa parte di un collettivo, insomma, non è la prima volta che così, vabbè, è una curiosità questa, la figlia del ministro dell'economia lì con megafono che urla, e va bene, quindi Padoan alla giacca di ladri di biciclette. Sì, è sempre più dimesso. Ma allora... Sento più dimesso, ormai non riusciamo più, quella tiritera lì, dei 2-3 milioni, una tiritera falsa. Io vedo, tutti noi vediamo, nessuno ha il coraggio di dirlo, la fine del cui come inesorabile, e nessuno sa come ne usciremo noi italiani. Altri 2-3 miliardi attesi. Comunque, andiamo avanti. Allora, andiamo al traffico, che poi ripartiamo a capire, insomma, se queste elezioni devono essere fatte, tu dici di no, e capire anche che cosa ne pensi di Renzi, che in questo momento è un po' come un'onda carsica e si è sotterrato così, ma starà studiando qualcosa, non lo so. E vai col traffico! Forza Raggi, forza Raggi, siete ridicoli. Il problema è che i democratici amano la democrazia solo quando vincono loro. Trump. Ale, Trump è un mago. Con una mano fa vedere una cosa e con l'altra che farà? Ai ai ai ai ai ai. Petrolieri, finanzieri, banchieri, siamo sembrati e lo siamo stati interessati solo ai potenti. Renzi non vedeva l'ora di apparire come il soggetto di riferimento dei potenti della terra, era la sua principale ambizione, non ha mai mostrato particolare attenzione verso i luoghi della sofferenza, ha cominciato a farlo dopo la sconfitta, è andato a Scampia quando non era più presidente del Consiglio. Niente, ormai Emiliano si sveglia e spara contro Renzi, questa è la sua missione politica. Emiliano, va bene, avete sentito, in segreteria telefonica c'è chi inneggia la Raggi, c'è chi inneggia Trump, è bello, il nostro pubblico è variegato, eh? Hai visto la Raggi, caro, no, Forchielli, ti faccio sentire Di Maio. Ma cosa vuoi? Che vuoi, non lo so. Sempre delle grandi giudiziarie, tra un po' troveranno le carichi pendenti anche chi ha fatto uno scippo di scooter in via del Babuino, no? Non credo. Dico anche di più, con la spread che ha toccato 200 ieri, io per sicurezza indagherei anche la Raggi, tanto per non lasciare niente di scoperto. Ma perché? Cosa c'entra adesso con lo spread? Ah, beh, si entra dappertutto la Raggi. Ah, tu dici la tua. Sai, caso Raggi, ormai, se su un tavolo ci sono quattro posate e tre sono sporche, nel dubbio che lo sia anche la quarta, si sparisce al tavolo, no? Cioè, che vuol dire? Bisogna liberare tutto? Sì. Via. Ma sì, ma... Dai, cioè, no, io poi, senza sapere una cosa dell'altra, cosa ne fa l'avvocato. torna a fare l'avvocato. Vabbè, ma no, invece Grillo ha detto che ha fatto 43, quante? 47, 43, 45, non lo so. Sì, Grillo ne ha dette tante. No. 43 cose positive negli ultimi 7 mesi. Guarda che ti faccio passare una bella giornata su Twitter anche con gli amici del Movimento 5 Stelle. Ti faccio passare. Sì, sì. Vabbè, intanto ma non hai bisogno di mezza Bangkok, ti posso solo dire questo su Baraggi. Non ci si sta dietro, non si riesce a seguire. Vabbè. Una vicenda così. Allora dimmi un po' invece di Renzi, che pensi? Ma Renzi vuole tornare al potere? Scusa, questo c'ho la febbre, adesso se tossisco abbi pazienza, tanto non sono contagioso fino a Bangkok. Vabbè, Renzi cosa fa? Cosa fa secondo te? Vuol tornare? Ma sì che vuol tornare, quello non... è nato per far quello, l'unica cosa che sa fare è la gestione del potere, solo che secondo me è perdente. Se non cosa vuoi, ha sfondato il deficit di mille modi per comprare voti, si è venduto una riforma che gliela ha ricattato in gola, adesso ha fatto una legge elettorale che la consulta ha smontato, siamo tornati peggio di prima, se lo devo giudicare i risultati abbiamo fatto giudicarli in Francia. Più di che ma l'hai vinto il convegno di Rimini? Sì, il convegno di Rimini chiude con uno show da televendita per fare invidia ma strotta. Ti manchi che regali a tutti un corpo piumone. È meglio Gentiloni. Meglio Gentiloni, vabbè. E abbiamo sistemato anche Renzi. Quell'altro Bersani che dice pronti per un nuovo Olivo. Non ha neanche fatto i conti con la Xylella. C'è un porta sfiga, no? Sì. Ma chi? No, ma dai, ma Alberto, ma io come faccio a vivere adesso? Qui tu te ne stai a Bangkok e chi se ne frega? Tu stai là, spari a zero e poi dopo chiamano me, rompono. Alino, guarda, qui va a finire, che lezione non le facciamo? A fine anno... Vabbè, nel 2018 le faremo, che cavolo, cioè non è che andiamo avanti. Fine anno, troica. Vabbè, ti faccio sentire Di Maio, eppure Di Maio dice che... è convinto il 5 Stelle possa arrivare, senti un po' qua. È il momento della prima forza politica del paese che è l'unica che può ambire ad arrivare al governo di questo paese al 40% come abbiamo detto e mandarle a casa una volta per tutte. Però al ci 40% ci dobbiamo credere, Albertone, 40% perché bisogna puntare a quella soglia. La gente non ne può più dei partiti tradizionali, si protesta e poi il Movimento 5 Stelle è il filo busto per arrivare alla troica. Cioè, mettiamo su quel carro lì e siamo sparati. Cioè, arriva il 5 Stelle e nel giro di quanto tempo va tutto? Il giro di 2 o 3 mesi, ci finiamo subito. Ma 2 o 3 mesi va tutto a ramengo. Con senso, con i 5 Stelle facciamo prima. Quindi comunque andare a ramengo è la nostra destinazione. Sì, no. Secondo me, secondo... ma al di là per come sono messe le cose, ormai cosa vuoi, con un'America che dell'Europa non gliele frega più un cazzo, vuol ridimensionare la Germania, vuol fare un patto con Putin e noi ci fa fare la fine della Grecia, poi la Grecia è ripresa, gran smazzolata sulle pensioni, tagli e via. Questo... e poi è inutile che mi vengano a dire uscire dall'euro, ma se poteva usciva la Grecia dall'euro, capito? Sai quante volte con la gente di Banca Italia abbiamo fatto sei come perché la verità è che dall'euro non si esce. No, questo per augurare ovviamente un buon martedì 7 febbraio a tutti i nostri ascoltatori, cioè finiremo come la Grecia, finiremo a ramengo, se arrivano i 5 Stelle un po' prima rispetto a un po' dopo, ma quello è il nostro... Sì, è il vettore più semplice, ma tanto non fa differenza, ormai non credono più a niente, capito? Ma è chiaro. Ormai i tedeschi sono preoccupati dell'atteggiamento americano, frega. L'analisi è chiara. Senti Alberto, ti voglio chiedere una cosa, perché una volta ci hai raccontato uno straordinario tuo rapporto con i dipendenti pubblici al comune di Imola, quando ti vedono arrivare da 10 metri e ti dicono no, guardi, io non posso fare la pratica. Questo in genere è il rapporto tuo con la pubblica amministrazione. Sono bravi, se no in altri posti bravi, da 25 bravi. Metri ti dicono no, prego, non si può. Sì, perché ho sempre le pratiche complicate, io ho residenze estere, sì, sono sempre uno che faccio lavorare. Va bene, sai che in Italia adesso decidono, è l'ennesimo tentativo di stroncare l'assenteismo del pubblico impiego, che soprattutto c'è il lunedì, soprattutto con i falsi permessi, i falsi invalidi, i falsi aiuti alle persone invalide, le leggi 104. No, la soluzione ce l'abbiamo a casa. I totali vanno microchippati come i cani. Ma come microchippati perché come i cani? Sì, statali! I cani devi mettere il microchip. Sì, certo, lo statale, so. Tutti i livelli di microchippiamo, così sappiamo... scatta tutto, tac, ma dai, ci sono 3,5 milioni di statali e molti ci staranno ascoltando, pensa come sono contenti, statali. Quelli bravi almeno sanno, almeno potrei fare la differenza con quelli bravi, quelli meno bravi. Quelli bravi diranno, oh, finalmente Fontiene ha trovato un sistema di merito, quelli meno bravi, starò sul culo, ma è destino tanto quello. Ma che merito è microchipparli come un cane? Almeno sappiamo se lavorano o non lavorano, capito dove sono, se no qui, capito, tra malattie, permessi, cassi e buffi, macchine del caffè, pausa sigaretta, se non si sa mai, capito? Ponti lunghi, feste, non c'è controllo. Va bene, lasciaci con questa immagine. Però ti devo chiedere una cosa, perché me lo dice un ascoltatore: cos'è un magnazocca? Un magnazocca? Un magnazocca. Intanto l'Erbod. Cos'è? Magnazocca è modenese. Sei molto. Ci scrive Carlo da Forlì Cesena. Ci scrive, ma è un magnazocca. No, magnazucca vorrei dire. Sì, ma ha scritto zocca, sarà la zucca, no? Ah, magnazucca, allora e è quindi? Un ferrarese. Cioè, è un insulto? Sai, i ferraresi sono un po' considerati serie B, capito? Sono un po' una provincia del fresco. No, perché adesso là te lo dicono, mi scrivono Forchielli, Sgarbile o Magnazucca? Vuol dire che è ferrarese. Vabbè, allora possiamo dirlo. Sì. È ferrarese. Pensavo di iniziare con l'ennesima querela. Garbi è ferrarese, per quello che ha un va bene. Magnazocca sarebbe, non l'ho mai sentito, ipotizzato male. Magnazucca invece. Sì, perché lì fanno i cappellati alla zucca. Va bene, è tutto chiaro. Albertone Forchielli, ti ringraziamo. Alla prossima, stai pure a Bangkok e ci sentiamo presto. Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppie! Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Miau. Abbigliamento di Alino. Togone da magistrato, parruccone ricavato da lana da materasso e bilancia due piatti per un'equa lettura dei giornali. 24 mattino. Ci siamo, cari ascoltatori, eccoci qua, sono le 7:19 minuti, tra qualche secondo, con gli scampoli di voce che vi rimangono, eccolo qua, Peter Biscapè, regia, che stavi guardando al computer, con Lorenzo Despoli. A posto? Le inchieste giornalistiche a posto? Bene. Allora, siamo qui, questo è lo spazio della rassegna stampa, la lettura dei giornali di 24 mattino. Andiamo, Peter! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È martedì 7 febbraio, intanto i titoli. La maggior parte delle aperture sono dedicate a Draghi, che difende l'euro, allo spread che supera quota 200. Questo è proprio il titolo di prima pagina del Sole 24 Ore. Eccolo qua invece il Corriere della Sera, Draghi in difesa dell'euro. Per Repubblica invece lo spread a quota 200, Draghi avverte Le Pen, l'euro è irrevocabile. La Stampa, alto là di Draghi, l'euro non si tocca. Il Messaggero, onda anti-euro, muro di Draghi. Mentre per Il Giorno, vola lo spread, addio voto. L'apertura del Manifesto è muro contro muro e c'è una foto del governatore della BCE Draghi in prima pagina. Anche per Avvenire, questo è il tema principale, ballo triste d'Europa, Draghi rassicura, euro irreversibile, ma è bufera, lo spread sale a 200.